E alle 9 in punto, come ogni venerdì, torna Pensa Tech, l'appuntamento di Radio Città del Capo con il mondo del digitale e dell'innovazione. E allora buona giornata a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ma anche a Elisabetta che sarà al mio fianco questa mattina. Buongiorno Damiana e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Possiamo salutare anche le nostre voci, come dire, inviate in giro che per oggi non sentiremo, Lisa Lazzarato che ci compila il Glossatech tutte le settimane e Marco Boscolo che oggi è a Matera a parlare di dati aperti. E allora, a proposito di Glossatech, inflazionatissima, pensate che la lettera S, perché anche questa mattina parliamo di smart, questa volta non più smartphone ma smart city, perché Bologna da lunedì 29 ottobre ospiterà la Smart City Exhibition tra 3 giorni alla fiera, in cui si parlerà di come la tecnologia può aiutare le città a migliorare l'ambiente, la partecipazione, la formazione, ma non solo. In realtà le idee in campo sono moltissime. E allora Elisabetta, prima di cominciare a vedere quali saranno gli appuntamenti e gli ospiti di questi 3 giorni, chiariamo il termine Smart City. Chiariamolo ed è necessario, direi, perché qui è un po' un cappellino sotto il quale stanno molte cose. E allora ascoltiamo. Come Smart Cities. Si sente parlare sempre più di Smart Cities, ovvero città intelligenti. E sempre più se ne parlerà, almeno a giudicare dagli investimenti che si stanno mettendo in campo a livello nazionale e europeo. L'Unione Europea, ad esempio, ha promosso l'iniziativa Smart Cities and Communities European Innovation Partnership. Lo scopo è finanziare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per rendere le città più intelligenti nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'ICT, Information and Communication Technologies. Perché c'è bisogno di città più intelligenti, cioè più efficienti nel loro funzionamento? Perché il 68% della popolazione europea vive in aree urbane, che consumano il 70% dell'energia consumata complessivamente. E sempre più persone si trasferiranno nelle città nei prossimi decenni. L'uso dell'energia, la mobilità e l'ICT sono 3 ambiti fondamentali, ma l'idea di Smart City abbraccia anche altri aspetti che hanno a che fare con la qualità della vita e i servizi al cittadino. E questo quindi un po' il cappello sotto il quale appunto si colloca tutta la definizione di Smart City. Damiana, intanto ricordiamo i nostri contatti, i nostri ascoltatori: sms 348-7649-289, mail diretta @radiocittadelcapo.it, però anche abbiamo una mail nuova che è pensatech con la ch @gmail.com, e poi il Twitter che cerchiamo di far andare anche durante la trasmissione. Abbiamo appena twittato per esempio l'indirizzo del programma web della manifestazione Smart City Exhibition, che sarà qui a Bologna dal 29 al 31 ottobre, e il Twitter è @pensatech con il ch. Ovviamente ci potete trovare anche su Facebook, questa volta però alla pagina della radio Città del Capo Radio Metropolitana, e ci trovate anche lì. Ecco, ci trovate quindi in varie parti della rete, anche fisicamente naturalmente, qui nella sede di Radio Città del Capo, via di Mura di Porta Galliera, ma la cosa fondamentale è provare a dare un po' di sostanza a questo termine Smart City. Ci ha provato Lisa naturalmente con il nostro Glossatech, ma andiamo oltre, Damiana, partiamo un po' dal punto iniziale. Smart City nasce come, abbiamo sentito, come progetto per ridefinire un pochino quello che è il tessuto urbano. La popolazione mondiale sempre più si concentrerà nelle città, già oggi più del metà della popolazione del mondo sta nelle città, si prevede addirittura il 70% entro il 2050. Quindi le città diventano per forza di cose un luogo dove bisogna ripensare un po' tutta la vita di questi, io li chiamo a volte organismi addirittura, le città sono veramente delle vere e proprie, dei veri e propri organismi. Organismi che però ogni tanto fanno fatica a respirare. Adesso è arrivato l'autunno, quindi cominciamo a sentire anche l'effetto delle polveri sottili che ritornano. Infatti facciamo fatica a respirare, e questo non è un dettaglio secondario, è uno dei primi punti realmente. La smart city deve essere una città sostenibile, come dicevi tu in apertura, una città in cui si vive prima di tutto bene, e sappiamo che uno dei grossi problemi di questi decenni, possiamo ormai dire che è accreditato come uno dei problemi principali, è il problema delle forti emissioni di anidride carbonica in atmosfera. È diventato un po' il parametro di riferimento della vivibilità e anche della, come dire, della sostenibilità, e quindi la necessità di abbattere queste emissioni di carbonio è sicuramente diventato un po' l'indicatore proprio per migliorare la vita nelle città e complessivamente insomma nei nostri paesi, però non è l'unico elemento, e quindi dentro la smart city, oltre a questo, naturalmente ci sono molti altri aspetti, cioè quello di ipotizzare una mobilità che non sia solo sostenibile ma sia anche logica, meno stressante, più in favore per esempio dei trasporti pubblici, di una vita della città anche più piacevole, e poi tutta una serie di altri elementi, una cultura che sia diffusa, un abbattimento di quello che è il digital divide, quindi la possibilità di avere tutti in rete per utilizzarla anche proprio per servizi concreti, ne abbiamo parlato anche nelle altre puntate di Pensatech. Quindi la smart city non è soltanto, diciamo, una sorta di nuova opportunità per portare dei soldi ai progetti delle città, ma proprio un modo per ripensare il modo di vivere le città e anche di generare nuovi lavori. Questo lo vedremo anche già con un paio di esempi concreti qui oggi, poi naturalmente un modo anche per combattere la crisi. Allora Elisabetta, facciamo un passo indietro, parliamo di nuovo di ambiente. Parliamo di nuovo di ambiente, perché intanto, e ci tengo a sottolinearlo un po' la cifra anche di Pensatech, l'ambiente non solo naturalmente è una priorità assoluta, deve esserlo, perché è chiaro che anche la nostra salute dipende molto dalla condizione ambientale, ma è anche un settore nel quale possiamo sviluppare nuovi lavori, come dicevo, sviluppare nuove competenze necessarie. Una di queste competenze è quello di riuscire a fare un bilancio delle emissioni di carbonio e un bilancio, diciamo, energetico, cioè di quanto spendiamo e di come si può risparmiare energia. Un esempio di questo tipo è una nuova startup, ce ne sono naturalmente molte in questi anni, ma insomma una startup veneta nata nell'agosto del 2011, si chiama MR Energy Systems, e l'amministratore unico si chiama Mauro Roglieri. Mauro Roglieri ha lavorato molto anche all'estero e ha messo a punto un sistema per fare appunto una analisi, un intervento preciso sui consumi energetici, sia di luce elettrica che di gas e riscaldamento, con le tecnologie che sono oggi a disposizione. Quindi qui vediamo le due cose messe insieme: la capacità di ragionare in termini di abbattimento degli sprechi e al tempo stesso nuovi lavori che si fanno strada. Sentiamo Mauro Roglieri intervistato da Marco Boscolo. Noi siamo abituati a pagare abbastanza, diciamo, ciecamente le nostre bollette dell'energia, molto spesso senza nemmeno leggere il dettaglio di quello che è scritto in queste bollette. Alcune volte anche aziende di grandi dimensioni hanno come unico sistema di misura quello, diciamo, fiscale, proprio installato dal fornitore di energia, che corrisponde praticamente al punto di consegna del vettore energetico, quindi il classico contatore dell'Enel in ingresso allo stabilimento e il classico contatore del gas naturale. Questo vale sia per gli stabilimenti industriali che per le normali abitazioni. Però diciamo che all'interno poi di una casa o di uno stabilimento industriale i consumi energetici prendono poi delle strade diverse, ed è importantissimo conoscere sia, diciamo, a livello di tipologia di apparecchiature e tipologia di consumo come vengono ripartiti questi consumi, e sia come questi consumi si declinano poi a livello temporale lungo l'arco della giornata, della settimana o del mese. Questo perché mediante proprio il monitoraggio sia temporale che, diciamo, di tipologia di consumo, è possibile poi capire dove sono gli sprechi. Quindi se io chiedessi da privato cittadino una consulenza per casa mia per quanto riguarda i miei consumi, voi venite a casa mia e mi installate di fatto un altro contatore più specializzato, diverso da quello che ho già installato, che mi dice in qualche modo dove sto sprecando? Sì, certo, questo si può fare. Chiaramente negli ultimi anni abbiamo tutti quanti vissuto il cambiamento dei contatori, diciamo, elettromagnetici tradizionali con dei contatori elettronici di nuova generazione. I distributori hanno provveduto a questa sostituzione e in questo, diciamo, l'Italia è, diciamo, tra i primi paesi che ha applicato questo tipo di cambiamento. La stessa cosa sta avvenendo gradualmente anche per i contatori del gas, ma questo, diciamo, a favore dei distributori che hanno potuto così introdurre delle tariffe basate sulle fasce orarie. Se invece vogliamo diciamo, utilizzare questi dati anche per il controllo dei consumi di casa nostra come della nostra azienda, dobbiamo fare in modo che questi dati, che vengono già raccolti e trasformati in informazioni digitali da questi contatori, siano poi, diciamo, analizzati e trasmessi a un sistema intelligente che non solo poi raffiguri, ci rappresenti attraverso dei grafici, delle tabelle, questi i vari consumi, ma anche ci dia poi la possibilità, fatte le nostre analisi, di agire e quindi poter inserire anche degli attuatori per diciamo, gestire meglio i consumi energetici. Faccio un esempio molto, molto concreto e molto semplice: dalla tradizionale, diciamo, modalità di accensione e spegnimento dell'illuminazione, per esempio in un ufficio, si può inserire per esempio due livelli di, diciamo, automazione di risparmio: il primo mediante il controllo per esempio della presenza di persone all'interno dell'ufficio e quindi fare in modo che non resti mai, diciamo, la luce accesa in assenza di persone all'interno dell'ufficio, e il secondo livello è il controllo del flusso luminoso a seconda dell'illuminazione naturale, e poter controllare questo flusso luminoso a seconda proprio del livello di flusso luminoso che invece è necessario per il comfort visivo degli occupanti, consente un notevole risparmio che può arrivare anche a risparmi del 70%. Certo, visto che si parla poi anche di smart cities, quindi di iniziative che partono anche in qualche modo dall'amministrazione pubblica delle città stesse, avete anche clienti che sono soggetti pubblici, non so, qualche edificio comunale, cose del genere? Sì, gli enti pubblici, così come, diciamo, le aziende private, sempre più hanno delle azioni sia volontarie che appunto delle direttive specifiche che riguardano il patrimonio edilizio pubblico. Per quanto riguarda le azioni volontarie, possiamo citare per esempio il Patto dei Sindaci, che è un'iniziativa del Direttorato Generale per l'Energia della Commissione Europea, che ha, diciamo, creato questo programma in cui i singoli comuni, i singoli sindaci possono aderire prendendosi degli impegni per la mitigazione, appunto la riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 in ottica, diciamo, volontaria. Questo impegno, diciamo, dà una certa visibilità al comune, al sindaco, ma allo stesso tempo richiede da parte del comune la redazione di un piano d'azione. Molto spesso, ecco, la prima cosa da fare è proprio un inventario, quindi monitorare le attuali fonti di emissione a livello del comune e poi inserire delle azioni concrete volte alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2. Chiaramente uno degli elementi fondamentali, quindi delle fonti che sempre è tra quelle presenti, è proprio quello dei consumi energetici nel patrimonio edilizio comunale, quindi gli edifici proprio di pertinenza del comune, ma anche le scuole e via dicendo. E anche, possiamo anche sottolineare anche tutti i sistemi di illuminazione pubblica stradale, ma anche di parchi, per esempio, oppure zone, diciamo, pedonali, dove è altrettanto vero che si possono ottenere notevoli risparmi proprio anche con interventi di efficienza energetica. Vai, vai, Damiana. ci stavamo passando la palla. Allora, dicevamo, abbiamo sentito Massimo Raglieri. Roglieri, scusa. Io prima, sì, Roglieri. Mauro Roglieri, fondatore e amministratore unico di MR Energy Systems, che è appunto una startup fondata nell'agosto del 2011. E poi vi metteremo naturalmente il link sul nostro Twitter, ricordo, @pensatech. Volevo sottolineare una cosa, Damiana, di quello che ha detto Roglieri, perché è un tema su cui probabilmente torneremo in altre puntate di Pensa Tech, e anzi chiediamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di segnalarci eventualmente esperienze che conoscono, ed è quella appunto del patto dei sindaci che Roglieri citava. Il patto dei sindaci è un'iniziativa volontaria partita nel 2008 a livello europeo, ci sono più di 4.000 comuni che hanno siglato volontariamente un accordo per cercare di abbattere appunto i consumi energetici e non solo, insomma, gli sprechi delle proprie città, sempre secondo lo stesso indicatore che dicevamo prima, cioè quello dell'abbattere le emissioni di carbonio, e più di 2.000 di questi comuni sono in Italia, quindi ci tenevo a sottolinearlo perché evidentemente è stata vista come un'opportunità dai comuni italiani, sia per muoversi concretamente, sia forse anche per attirare dei fondi. Però un elemento importante è che non si tratta di un piano programmatico teorico, ma un vero piano applicativo, cioè ci sono delle misure concrete, i piani sono adesso sottoposti a livello europeo per vedere quali verranno finanziati, ma delle misure concrete e misurabili che nel corso degli anni dovrebbero portare proprio a un abbattimento costante delle emissioni. Quindi questo per quanto riguarda l'aspetto ambientale della Smart City. Ecco, Elisabetta, tu hai toccato però un punto importante, che è quello dei soldi. In questo momento gli enti locali sono in difficoltà, siamo in periodo di crisi, anche le aziende fanno fatica a fare investimenti e la tecnologia costa, sicuramente sul lungo periodo porta anche a dei risparmi, però insomma servono degli investimenti, e proprio gli investimenti sono quelli che in questo momento gli enti locali fanno fatica a fare, anche per dei vincoli di bilancio molto forti, e allora bisogna rivolgersi alla società civile nel suo significato più ampio, non solo le aziende ma proprio anche i cittadini che partecipano e sentono come loro questo tema come importante, insomma il coinvolgimento proprio della cittadinanza. E allora cominciano a nascere anche delle applicazioni, delle piattaforme che cercano di mettere insieme quella che è queste esigenze, ma anche questa volontà di partecipazione. Si tratta del crowdfunding, viene sviluppato in differenti luoghi, in differenti maniere. Una di queste è appunto il crowdfunding tramite siti internet, uno di questi è Appela. Allora noi abbiamo intervistato Chiara Spinelli, project manager di Appela. Però non solo per iniziative legate all'aspetto ambientale, vero Damiana? Qui si parla proprio di una cosa tutto tondo, una ridefinizione di tutta la città. Assolutamente, una vera e propria partecipazione, perché stiamo parlando di fondi anche per le associazioni, per singoli progetti, non solo ambientali e soprattutto anche non solo legate alla tecnologia, nel senso che la tecnologia in questo caso diventa lo strumento per poi portare finanziamenti e partecipazioni altrove, ad altri progetti. Allora sentiamo alcuni come funziona e anche alcuni esempi dalla stessa Chiara Spinelli di Appela. Dunque, Appela è una piattaforma di crowdfunding, è una parola di cui in questo momento si sente abbastanza parlare in giro. È fondamentalmente un sistema per raccogliere finanziamenti dalla folla, dalle persone, proponendo il proprio progetto su internet, quindi raccontandolo e stabilendo una quota che si vuole raggiungere, un tempo entro il quale raccoglierla e delle ricompense che vengono date alle persone in cambio della loro libera donazione sul progetto. Questo tipo di modello, diciamo, di raccolta fondi appunto parla da persona a persona, quindi è adatto per progetti creativi di tutti i tipi, ma non soltanto, anche per progetti che hanno, diciamo, un interesse sociale, basta che siano progetti che hanno, diciamo, un interesse attivo di una comunità intorno, che sia una comunità di fan di un progetto creativo o una comunità di cittadini interessati a vedere realizzata un'idea o un progetto sul territorio. Quello che proporremo a Bologna, la Smart City Exhibition, è un incontro che è stato promosso insieme al Comune di Bologna per discutere fondamentalmente di come queste buone pratiche di crowdfunding possono entrare all'interno di progetti partecipativi e poi anche di raccolta di finanziamenti da parte della pubblica amministrazione, cioè fondamentalmente di come si possa passare dalla, diciamo, decisionalità dall'alto di un comune, di una realtà pubblica che decide di finanziare, di mettere a bilancio un progetto sul territorio e quindi di finanziarlo, a un processo partecipativo dal basso per cui sono i cittadini a individuare quali sono le necessità, per esempio di arredo urbano o di attività associative, ricreative su un quartiere, e quindi in un certo senso portare sia il loro contributo di attività, ma anche volendo il loro piccolo contributo economico che poi viene magari anche compensato dalla pubblica amministrazione. Ci puoi fare degli esempi su esperienze che sono arrivati a compimento, che hanno raggiunto abbastanza fondi? Dunque, la fascia di finanziamento, diciamo, che in questo momento è sostenibile per i progetti di crowdfunding in Italia, si aggira al massimo intorno ai 10.000 euro, mentre vediamo che esperimenti di crowdfunding su piattaforme in tutto il mondo stanno portando anche a risultati molto più grandi, ma nel nostro piccolo si tratta di stabilire una buona pratica culturale, quindi ci stiamo provando. Per esempio mi piace citare un progetto che veniva dall'area emiliana, che si intitolava, che è stato ospitato su Eppela sulla nostra piattaforma, che si intitolava Il Sole di Hiroshima. È stata fatta una cerimonia delle lanterne galleggianti che doveva essere inizialmente, quindi era un progetto non profit, doveva essere inizialmente dedicata a una raccolta di fondi per Fukushima, diciamo, per le vittime del terremoto del Giappone, ma in realtà poi si è sovrapposta purtroppo l'emergenza del terremoto in Emilia, quindi i fondi raccolti, diciamo, sono stati destinati in piccoli progetti per entrambe le necessità. Sono stati raccolti semplicemente 2.000 euro, quindi una piccola cifra, hanno contribuito una ventina di sostenitori e niente, in questa edizione 2012 di questo piccolo evento è stato possibile farlo anche grazie al contributo raccolto attraverso queste persone. Secondo la vostra esperienza è sufficiente il sito per creare queste buone pratiche oppure ci sono anche delle accortezze di crowdfunding da seguire? Invertirei totalmente la priorità. La priorità, come dico sempre, è la community sul progetto. Il sito è una vetrina per tanti progetti, tante realtà, ovviamente ha una sua community attiva e ovviamente chi finanzia un progetto di un certo tipo può essere interessato anche poi in seguito a finanziarne altri, però la community già creata e già interessata al progetto è fondamentale. Io dico sempre che è quasi un 70% del successo del progetto, perché nessuno conosce la propria community di riferimento come il progettista stesso e per lui deve essere un test per capire veramente quanto quel progetto interessa al suo mercato. E quindi noi ci raccomandiamo che, soprattutto visto che questo è un mezzo web, non è una raccolta fondi offline, ci raccomandiamo che i progettisti siano ben focalizzati su questo, che abbiano chiaro che non è soltanto una raccolta fondi ma che è anche un'operazione di comunicazione, di aggregazione su una buona idea e che quindi per esempio l'aspetto di coinvolgimento attraverso i social network è assolutamente fondamentale. Thank you. chissà quanti di voi hanno riconosciuto in questi suoni orchestrali una famosa musichetta dei videogiochi, anzi quasi ormai una delle più famose applicazioni. Elisabetta, facciamo un quiz, vediamo chi ci manda la risposta giusta su Twitter @pensatech, e dobbiamo pensare un premio pensatecchiano proprio. Chissà, magari per la campagna abbonamenti potrebbe essere proprio questo il gioco che vi rivolgiamo. A proposito di Twitter, salutiamo i nostri compagni twittatori che questa mattina hanno lanciato l'appuntamento in radio. Allora salutiamo Marco Trotta e Panzallaria che ci hanno citato. E poi ci sono arrivati altri tweet, Damiana. Ora oggi ufficio in casa, ci dice, oggi fila di auto di lavoratori, gran puzza di smog a Bologna, l'ufficio in casa è anche sostenibile smart, che ne pensate? In effetti ufficio in casa, questa è una delle cose di cui parleremo prima o poi qui a Pensatech, cioè come si ridefinisce il mondo del lavoro in una città smart, senza obbligarci a fare appunto ore e ore di coda tutte le mattine in mezzo alla puzza del gas di scarico, perché anche il lavoro si sta ridefinendo, rimodellando. Ma noi volevamo dare un appuntamento, Damiana. Sì, sono diverse in realtà gli appuntamenti ovviamente che gli ascoltatori possono andare a seguire nella Smart City Exhibition. Ricordiamo, parte lunedì ed è alla fiera, durerà per 3 giorni, per tutta la giornata dei 3 giorni, e tra questi appuntamenti ce n'è uno dedicato ai nativi digitali, perché appunto siamo partiti questa mattina parlando di Smart City legato all'ambiente, abbiamo parlato di partecipazione, come raccogliere i fondi per anche in questo periodo di crisi. La Smart City vuol dire anche open data, vuol dire partecipazione, ma vuol dire anche superare il digital divide e soprattutto avere un occhio particolare a quelli che saranno i prossimi abitanti della Smart City, i nativi digitali. Allora, tra gli appuntamenti vi segnaliamo martedì alle 12 Voli Group parteciperà a un laboratorio, terrà un laboratorio dedicato proprio ai più piccoli, ai piccoli nativi digitali. Ecco, e poi volevo segnalare alcuni laboratori interessanti sull'uso dei dati aperti, è una cosa di cui torneremo a parlare naturalmente qui a Pensatech. Ci saranno dei laboratori, proprio Bologna Smart City, martedì 30 ottobre nel pomeriggio dalle 2 alle 6, l'uso intelligente dei dati aperti, social media per il marketing urbano, la valorizzazione delle start-up per costruire la via Emilia creativa, insomma l'idea di usare i dati che le amministrazioni stanno mettendo a disposizione. Su questo torneremo, perché poi anche qui ci sono luci e ombre naturalmente, ma insomma i dati che vengono messi a disposizione per poi invece andare a progettare, costruire città appunto più smart. I cittadini sono invitati a partecipare a questo workshop, lo ricordo appunto martedì pomeriggio alle 2, proprio per imparare a capire cosa sono questi dati, quali sono e come ci si può lavorare, per esempio i bilanci comunali, una cosa che sicuramente interessa a tutti noi. Allora, il discorso, Smart City sicuramente non si ferma qui, perché la settimana prossima si terrà l'evento, noi venerdì prossimo torneremo a parlarne sicuramente per fare anche un primo bilancio, a raccontarvi quelle che sono le esperienze che ci hanno colpito di più. E allora l'appuntamento per venerdì prossimo sempre alle 9, ma ancora sui nostri social network, Pensatech con CH su Twitter, la pagina Facebook di Radio Città del Capo, e ancora ovviamente trovate le nostre puntate in podcast archiviate su Archive e le trovate su rcdc.it. E allora a questo punto non ci resta che salutare. E cioè salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, naturalmente anche tutti quelli che ci seguono in rete. Damiana, ricordiamo che tra poche ore ci sarà il podcast sul sito di Città del Capo Radio Metropolitana. E allora ciao a tutti e sigla.